Quindicesima unità. Al ristorante. Dialogo. Al convento. Che ristorante carino, come l'hai scoperto? Me l'ha consigliato Tommaso. Credo che ci sia venuto anche 2 giorni fa. Speriamo che la cucina sia buona. Vediamo il menù. I prezzi sembrano ragionevoli. Ti va una grigliata di pesce? No, il pesce non mi piace. E poi, tu credi che da queste parti si possa avere del pesce fresco? Hai ragione. Comunque pare che le specialità del ristorante siano i primi a base di verdure. Sì, pasta fatta in casa. Vorrei provare queste tagliatelle alla rucola. I signori vogliono ordinare? Sì, grazie. Per la signorina tagliatelle alla rucola e per me penne ai carciofi. Hanno già deciso per il secondo? Non ancora. Intanto vorremmo qualche antipasto. Abbiamo l'antipasto caldo della casa. È a base di verdure al forno. Perfetto. Ce ne porti 2. Ci porti anche una bottiglia di vino rosso e 2 di minerale, una naturale e una gassata. Grazie. Ecco un altro con il telefono portatile. Ti sembra giusto che se lo porti anche al ristorante? Se li tassano, fanno proprio bene. Ma non sono d'accordo. Per qualcuno sono una necessità. Pensa a un avvocato, un medico. Ah, ecco gli antipasti. Niente male. Beh, buon appetito. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Che ristorante carino. Come l'hai scoperto? Me l'ha consigliato Tommaso. Credo che ci sia venuto anche 2 giorni fa. Speriamo che la cucina sia buona. Vediamo il menù. I prezzi sembrano ragionevoli. Ti va una grigliata di pesce? No, il pesce non mi piace. E poi, tu credi che da queste parti si possa avere del pesce fresco? Hai ragione. Comunque pare che le specialità del ristorante siano i primi a base di verdure. Sì, pasta fatta in casa. Vorrei provare queste tagliatelle alla rucola. I signori vogliono ordinare? Sì, grazie. Per la signorina tagliatelle alla rucola. E per me penne ai carciofi. Hanno già deciso per il secondo? Non ancora. Intanto vorremmo qualche antipasto. Abbiamo l'antipasto caldo della casa. È a base di verdure al forno. Perfetto. Ce ne porti 2. Ci porti anche una bottiglia di vino rosso e 2 di minerale, una naturale e una gassata. Grazie. Ecco un altro con il telefono portatile. Ti sembra giusto che se lo porti anche al ristorante? Se li tassano, fanno proprio bene. Ma non sono d'accordo. Per qualcuno sono una necessità. Pensa a un avvocato, un medico. Ah, ecco gli antipasti. Niente male. Beh, buon appetito. Vocaboli pagina 385. Gelato. Fettuccine. Frutti di mare. Salame. Vocaboli pagina 386. Valpolicella. Sangiovese. Lambrusco. Barbera. Frascati. Orvieto, Verdicchio, Chianti. Vocaboli pagina 388. Piscina, salotto, giardino, sala da pranzo, terrazza, camera. Quindicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 20. Una ricetta facile. Ottimo questo risotto. È una ricetta tua? No, me l'ha data mia zia. Lei lo fa spesso. Ci vuole molto a prepararlo? No, si fa prestissimo. Una 30 minuti in tutto. Che ingredienti occorrono? Ce ne vogliono diversi. Dunque, 350 grammi di riso, 30 grammi di burro, 2 cucchiai di olio di oliva, 400 grammi di pomodori pelati, mezzo bicchiere di vino bianco secco e poi del sedano, una cipolla piccola, un po' di basilico, uno spicchio d'aglio, sale e pepe. Mi pare che ci vogliano anche 2 filetti di acciughe, ma io non ce le metto. Ma il riso si cuoce nell'acqua? Ah, scusa, dimenticavo. Serve anche un po' di brodo. E tu credi che io possa ricordare tutti gli ingredienti? Vuoi che te li scriva? Magari. Eccoti un pezzetto di carta. No, aspetta. È meglio che li scriva da me. Dettameli. Dunque, 350 grammi di riso, 30 grammi di burro, 2 cucchiai di olio di oliva, 400 grammi di pomodori. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 398. Con questo caldo non ho voglia di mangiare nient'altro. Come? Ti fermi al primo e pensare che ho passato la mattina a preparare il tuo piatto preferito. Mi dispiace che tu abbia lavorato tanto per niente. Ma che ci posso fare se non ho appetito? Ma almeno provane un po'. Te ne do un pezzetto. È buono, sai? Senti, Grazia, cerca di capire. Ho mangiato un piatto così di spaghetti. Mi basta, non mi va altro. Se non vuoi il pollo, posso farti una bistecca ai ferri o 2 uova al tegamino. E va bene. Prendo un pezzetto di pollo. Ma è il più piccolo, giusto per farti contenta. Ecco qui. Ti piace? Avevi ragione. È ottimo. Me ne dai un altro pezzetto? Lo sapevo. Ecco, tieni.